Questo podcast era nato con un'idea diversa. Doveva raccontare un'altra storia, quella di Aurelio, un uomo di Torino che per 40 anni ha tenuto un diario epistolare. Dall'adolescenza in poi, ogni giorno della sua vita, Aurelio aveva scritto una lettera a un amico immaginario. In queste lettere raccontava i suoi pensieri nascosti, le passioni che non poteva condividere con gli anziani genitori con cui viveva, o con i colleghi di lavoro della ditta in cui era impiegato. Persone a cui aveva deciso di non dire niente di sé. Nel diario raccontava gli amori sognati e quelli vissuti in segreto. Mi ero innamorata della storia di Aurelio e volevo provare a restituirle vita e voce, portandola fuori dalle pagine sigillate dei suoi quaderni, affidati prima di morire all'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano. Ma ho scoperto che donandoli Aurelio aveva lasciato scritto che quei diari non venissero mai resi pubblici. In quell'ultimo gesto, Aurelio aveva consegnato la sua vita all'oblio. La sua esistenza si era svolta in segreto e così doveva rimanere. La storia di Aurelio ha poco o niente in comune con quella di Maria Silvia Spolato, quella che poi ho deciso di raccontare. Così invisibile lui, così esposta e coraggiosa lei, e incurante di quanto il suo rivendicare pubblicamente la sua omosessualità potesse avere delle conseguenze. Ma c'è una cosa che rende queste vite in qualche modo vicine, ed è la volontà di venire dimenticati. Perché anche Maria Silvia, dopo essere scesa in piazza e aver urlato chi era, in un'Italia cattolica e chiusa, a un certo punto ha scelto per sé l'oblio. Mi chiamo Sara Poma e questo è Prima, la storia della prima donna ad aver fatto un coming out pubblico in Italia. È la storia di come stavano le cose prima e di come, grazie al coraggio di alcuni e al sacrificio di molti, sono diventate più semplici, anche per me. La sparizione di Maria Silvia non avviene di netto. Me lo raccontano ancora Giovanna Pala e Anna Rapp, le sue amiche del Pompeo Magno, il circolo femminista che frequentava. Giovanna mi racconta che qualche volta andava a trovarla a casa. Sono stata nella prima casa che Maria Silvia aveva, dietro Piazza Navona, era un piano terra, e lei aveva già perso il lavoro. E già lì c'era tutto. Un casino di giornali, di cose, cioè tutta roba, cioè era già. E anche lei personalmente cominciava a lasciarsi andare, cioè ha avuto come, perché all'inizio quando veniva lei era sempre, cioè aveva queste camicie indiane, i capelli neri legati dietro, insomma era, stava bene. E poi piano piano ha cominciato anche a trascurarsi, non lavarsi. E anche questa casa qui era un macello. Poi dopo si vede per ragioni economiche, si è trasferita in un'altra casa, sui Castelli. E io sono andata a trovarla anche lì. E anche lì, e la casa era un macello, in più lei non apriva più le finestre, per cui si capiva che il mondo doveva stare fuori. In quel periodo, nonostante l'indigenza economica, Maria Silvia possiede ancora una macchina, il suo maggiolone nero, dove passerà diverse notti dopo aver perso la casa. Proprio a quella Volkswagen è legato un ricordo di Giovanna. Già cominciava a stare male e mi sono fatta portare al Partito Radicale, dove lei c'aveva, c'era il fuori, era conosciuta, e siccome noi non avevamo ciclostile all'inizio, quegli anni, i primi tempi, e io ho detto: senti Maria Silvia, portami tu al Partito Radicale che devo farti i volantini. Per cui io vado lì e le dice: se ti accompagno. E mi ricordo che entrando nella sua macchina, stava Volkswagen scassatissima che ci aveva, no? E lì ha cominciato a dire siamo seguite, ci sono i microfoni dentro la macchina, ci ammazzano tutte. Io ero molto preoccupata. Dalla metà degli anni 70 Maria Silvia diventa di fatto una persona senza fissa dimora. Non sarà più avvistata alle riunioni al Pompeo Magno, alle manifestazioni del Fuori o nelle redazioni delle riviste militanti. La sua amica Anna Rapp di tanto in tanto però la vede e continuerà ad avere qualche sporadico contatto per un po' di anni. Quando non stava sul treno, stava alla Tiburtina. E lei mi telefonava, io la trovo lì. Ma quello era, appunto, mi ricordo benissimo che l'ho incontrata, ma penso oltre l'82-83. Quando stava alla stazione, io andavo lì con qualche soldino, un bacetto, perché non le ho mai, era sporca. Un disastro, poverina. Vabbè, io però baci baci, perché non ho mai rifiutato questa cosa. Anna mi ha raccontato anche un episodio che risale a quei primi anni Ottanta. E lei faceva le parole crociate, dice, sai, faccio le parole crociate in tedesco. Ah, cosa plausibilissima, perché siccome lei era una persona di cultura, niente poteva impedirle di sapere anche il tedesco. Tanto più che lei le comprava a Bolzano, no? Quindi tornava tutto. Poi un giorno, a un certo punto, io l'ho guardata, ma lei non faceva le parole crociate, scriveva una cosa qualsiasi. Dentro queste caselle lei scriveva qualcosa, convinta di scrivere, e quindi già lì. Questo racconto mi ha fatto sentire una grande tenerezza, perché mi sono ricordata che anche mia nonna Carla, che amava le parole crociate, negli ultimi anni di vita, quando non era sempre lucida, non rinunciava alla sua settimana enigmistica. E anche lei riempiva il cruciverba con lettere a caso. Quando mi capitavano sotto gli occhi mi chiedevo sempre se per lei quelle lettere ingarbugliate avessero magari qualche significato segreto. Ma torniamo a Maria Silvia, o meglio a quello che resta di lei. Dagli anni Ottanta sappiamo solo che dorme sui treni, attraversa l'Italia di notte. Predilige la tratta Roma-Bolzano, così da poter salire sul notturno e avere un riparo sopra la testa. Le sue compagne, mi ha raccontato Anna Rapp, le regalano diversi abbonamenti alle ferrovie. Qualcuno le offre una roulotte in cui alloggiare, ma lei preferisce restare in movimento. Forse qualcosa la chiama su al nord, a Bolzano. Del resto, da piccola la sua famiglia aveva una casa di vacanze lì vicino, chissà. A poco sparisce del tutto. Ci si chiederà di lei nei circoli militanti. Affiorerà qualche ricordo, ma alla fine sarà inghiottita in un oblio lungo quasi 30 anni. Passata in secondo piano nello scorrere dei giorni, dei mesi e delle lotte. Una delle cose che più mi ha colpito, rimettendo insieme i pezzi di questa storia, è che la sparizione di Maria Silvia avviene mentre capitano cose epocali nella comunità omosessuale, nel movimento che aveva contribuito a creare. Per quanto difficile e sicuramente riduttivo, provo a riassumere un po' degli avvenimenti che dalla fine degli anni 70 agli anni 90 toccheranno profondamente la comunità LGBT italiana. Intanto partiamo da un presupposto. Il periodo fra il 1977 e il 1980 è l'epilogo di un decennio segnato dalla morte e dalla violenza in Italia, cominciato con la strage di Piazza Fontana e finito con la stazione di Bologna. In mezzo ci sono le bombe sui treni, Piazza della Loggia, i depistaggi, i processi infiniti, gli scontri per strada. È come se in quegli anni la voce che la comunità gay aveva alzato sia stata sovrastata da eventi più grandi, la cui forza fu capace di inglobare tutto il resto. Ciò nonostante, ci sono fatti che in quel periodo appaiono sui giornali e che ricordano che la comunità continua a esistere ed è sempre più organizzata. Nel 1979 Pisa è il primo comune italiano a dare il patrocinio a una manifestazione omosessuale. Il 24 novembre scendono in piazza centinaia di persone per manifestare contro la violenza di cui i gay sono sempre più spesso vittime. L'anno successivo è proprio un fatto di cronaca violento a scuotere l'opinione pubblica. A Giarre, in provincia di Catania, due ragazzi che si chiamavano Antonio Galatola e Giorgio Giammona vengono ritrovati senza vita in un campo. I corpi abbracciati e una fantomatica lettera di suicidio in cui scrivono che non sopportavano più la vergogna. Si parlerà in realtà di un omicidio, ma tutt'oggi non esiste chiarezza su quella vicenda. In ogni caso, fu tanta l'indignazione di fronte a questo ennesimo episodio di violenza e verità negata, che lo stesso anno l'Arci decide di aprire una sezione dedicata alla cultura omosessuale e nasce così l'Arci Gay. Nel 1982 succedono due cose importanti. All'inizio dell'anno viene approvata la legge 164 che permette alle persone transessuali di cambiare legalmente sesso. Lo stesso anno, in primavera, la città di Bologna mostra tutto il suo progressismo, andando contro la curia e donando uno spazio cittadino all'interno di Porta Saragozza per costruire un luogo aggregativo e culturale per gli omosessuali. Nasce così il Cassero. Due giorni prima dell'inaugurazione, l'allora sindaco Renato Zangheri riceve una lettera dall'arcivescovo di Bologna, cardinale, che esprime la sua più profonda amarezza per aver donato agli omosessuali un luogo cittadino sacro. L'arcivescovo e cardinale in questione si chiamava Antonio Poma ed era il fratello di mio nonno e lo zio di mio padre. Lo so, sembra abbastanza incredibile, ma è vero. Intanto in TV, a Disco Ring, passa Ivan Cattaneo, il primo cantante pop italiano apertamente gay. E Libreria va ancora a ruba Altri libertini, il romanzo di esordio di Pier Vittorio Tondelli. Sei racconti sulle relazioni sessuali postmoderne dei ragazzi dell'epoca, che vivono fuori corso in appartamenti pieni di mozziconi di sigaretta e viaggiano per l'Europa con un senso di libertà disperata. Sullo sfondo di quei primissimi anni Ottanta, l'eroina trasforma le città italiane e si mangia un'intera generazione. Ho ancora ricordi vividi di quegli anni, quartieri ora noiosi e residenziali di Pavia, la mia città, dove era vietato giocare perché le aiuole erano piene di siringhe. Un ricordo che di sicuro condivido con tutti i miei coetanei di qualsiasi altra città italiana. E poi, in quel 1982, accade una cosa apparentemente poco significativa, ma che in realtà è l'inizio di qualcosa di gigantesco, destinato a travolgere tutto. In Italia, nel Lazio, si registra il primo caso di quella misteriosa malattia che sta facendo ammalare sempre più ragazzi gay nelle grandi città americane, San Francisco e New York su tutte. L'anno successivo in Italia i casi accertati saranno 4, e nel 1984-18, da lì la curva, una parola di cui oggi conosciamo bene il significato, sarà esponenziale. Negli anni seguenti, sui giornali, le notizie si affollano sempre più. Danno informazioni non sempre accurate, in molti casi contribuiscono a diffondere lo stigma o a creare confusione e paura diffusa. Nel 1988, sui canali Rai, appare un allora giovanile Piero Angela. È stato scelto lui per introdurre la prima campagna italiana contro l'AIDS. Quella che è rimasta scolpita nella mia memoria sarà però quella del 1990. L'AIDS non si vede, ma sta crescendo. La me stessa di 14 anni la guarderà con gli occhi sgranati, provando un senso di angoscia e paura profondissime. Una sensazione che si attiva ancora oggi appena sento le note di O Superman di Laurie Anderson, la musica che venne scelta per lo spot, insieme a quel famoso alone viola che circondava le persone inconsapevolmente infette. AIDS, se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide. Quelle campagne sono il primo gesto importante che il governo italiano mise in campo per sensibilizzare i cittadini sui pericoli dell'epidemia, mostrando che l'HIV poteva colpire tutti, anche gli eterosessuali. Ma nei 6 anni precedenti, in cui le notizie erano incerte e frammentate, le cure non esistevano e le persone morivano ogni anno di più, la comunità LGBT aveva dovuto stringersi e provare a capire da sola in che modo arginare la curva di morte che l'aveva travolta. Aveva dovuto in qualche modo cavarsela da sola, senza l'aiuto delle istituzioni. Mi sento un po' stupida a confessarlo, ma solo quest'anno, dopo aver visto una serie di Channel 4 che si chiama It's a Sin e che racconta di un gruppo di amici negli anni 80 a Londra, quattro ragazzi gay e una ragazza che divide la casa con loro, mi sono resa conto davvero che cosa deve aver significato per quella generazione vedere scomparire gli amici più cari, andare ai loro funerali o vivere con la paura che le persone vicine si ammalassero. Non che non ci avessi mai pensato prima, ma quella serie mi ha toccato profondamente, forse perché mi sono immedesimata in quella ragazza. Ho sentito il desiderio di parlarne con il mio amico Filippo. La mia domanda per lui è probabilmente stupida e non può avere una risposta, ma volevo sapere se ci pensa mai, come avremmo fatto se avessimo avuto 20 anni o la nostra età di adesso negli anni in cui l'HIV uccideva senza pietà. Forse vedendo quella serie ho più ricordato la paura che avevo io di trovarmi in una situazione del genere e insomma ammalarmi per via dei miei comportamenti sessuali. Per me tutto il momento degli anni 90, quando io comunque cominciavo a avere le mie prime piccole esperienze, insomma c'era ancora molta paura nel farsi vedere, nel dichiararsi, e quindi per me l'AIDS è stata proprio l'inizio, diciamo, della mia ipocondria, che poi è durata anni. Cioè per me tutte le volte che io avevo un rapporto sessuale all'inizio, nei miei 20 anni, il pensiero era quello, il pensiero era di fare qualcosa di sporco. Cioè per me quelle pubblicità, tutta quell'informazione lì, a me arrivava come: se hai del sesso di quel tipo verrà infettato. Cioè era proprio un'equazione, no? Come? E quindi mi ha anche molto bloccato, mi ha molto fatto vergognare del mio lato femminile, perché per me quel lato femminile era quello che poi avrebbe determinato il mio ammalarmi. Quindi poi negli anni ho sicuramente molto razionalizzato questo pensiero, ho capito che insomma questa paura era una paura di affermare la mia omosessualità e anche il mio lato femminile, che poi è stato un tema per anni. Se mi immagino in quegli anni, avrei voluto essere una persona più aperta e accettare più questo mio lato e affermarlo di più anche politicamente, cioè affermarlo come: io esisto, io sono così, non sento insomma vergogna per come mi comporto, per il tipo di sentimento che provo nei confronti di un uomo. In questo lungo arco di tempo, mentre la comunità LGBT conquistava vittorie importanti, soffriva, affrontava la morte, diventava sempre più larga, organizzata e consapevole, mi domando come vivessero tutto questo le persone gay rimaste in silenzio, quelle che non avevano avuto il coraggio o che avevano scelto l'oblio. Mi domando cosa scrivesse quell'uomo che ho citato all'inizio della puntata, Aurelio, al suo amico immaginario, nel diario che non ho potuto leggere. E naturalmente mi domando cosa facesse Maria Silvia Spolato, se le manifestazioni, le associazioni che nascevano e le notizie sull'epidemia di AIDS la raggiungevano mentre saliva e scendeva dai treni che erano diventati la sua casa, prima di fermarsi definitivamente a Bolzano, dove era cominciata l'ultima parte della sua vita, sempre solitaria, ma non più completamente invisibile. Prima è una produzione di Spotify Studios in associazione con Cora Media. Executive producer Jacopo Penzo. La cura editoriale è di Ilaria Orru con il supporto di Alessio Olivieri. Registrazione, sound design e musiche di Francesco Ferrari per Frigo Studio. Il fonico in presa diretta è Lorenzo Ferrillo. La sigla originale è stata scritta e suonata dai Berlinist.